ad alta voce, edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. Sesta puntata. Principale prigione di Stato, in un'epoca in cui la prigione non era luogo di pena quanto di passaggio a tempo indefinito in attesa di scontare la pena. Chi vi soggiornava più a lungo erano i debitori, perché la loro pena consisteva nel pagare i debiti ed era proprio quello che non potevano fare. La prigione aveva un prezzo secondo la cella o il quartiere che occupavi. Anche il più miserabile doveva pagare al secondino un diritto di ingresso, il garnish. Dopodiché veniva assegnato a una sezione o all'altra, a una cella singola o comune, a un piano alto dotato di finestre e pagliericci, o basso, fradicio, maleodorante e senza aperture, dove i detenuti dormivano sulla pietra o al massimo su tavole di legno. Il potere dei secondini era immenso. Il prigioniero era a loro discrezione e se voleva sopravvivere decentemente finiva per spendere somme ingenti e accumulare debiti. Così, anche quando veniva assolto, prima di uscire, doveva pagare i debiti di prigione e se non poteva farlo, non importava che fosse stato imprigionato ingiustamente, restava dentro. Come accadde a un celebre lord che, dopo aver intrattenuto la migliore società londinese ai suoi banchetti, in carcere per alcuni anni, venne assolto ma morì in prigione per non aver potuto ripagare le spese. I prigionieri godevano di una relativa libertà. Potevano visitarsi l'un l'altro e ricevere visite in qualsiasi momento. I secondini vivevano di questi traffici, le visite erano a pagamento. Sara fu subito famosa. La società londinese, che assisterà numerosa al processo, era curiosa di vederla e spesso si raccoglieva intorno a lei per interrogarla e ammonirla. Sara paga 18 pence di garnish per ottenere una cella alta. In realtà verrà messa ancor prima del processo nella cella dei condannati. Avendo confessato il furto, la sua sorte è segnata. Avrebbe potuto sfuggire alla condanna per aver reso King's Evidence, cioè denunciato i complici, ma questa possibilità le viene negata. Sul Gentleman's Intelligencer, che riporta fedelmente giorno per giorno la cronaca della sua vicenda, il 3 di marzo compare infatti questa notizia. Sua Maestà si è compiaciuta di promettere il suo grazioso perdono a chi scoprisse e consegnasse alla giustizia la persona o le persone coinvolte nel delitto commesso il 4 febbraio a Tanfield Court, nel Temple, a chiunque di loro o anche più d'uno, tranne Sarah Malcolm. E per incoraggiamento ulteriore, le due società del Temple promettono ugualmente che chiunque scopra qualsiasi altra persona coinvolta nel suddetto delitto, oltre alla suddetta Sarah Malcolm, così da consentire una rivelazione completa, riceverà un premio per ogni persona in tal modo condannata di 100 sterline. L'efferatezza dei delitti fa sì che nemmeno un briccone come Johnson abbia il coraggio di venire a patti con lei. Nessuno testimonierà a suo favore e chi confermerà qualche particolare della sua versione non sarà ascoltato. Tale è il desiderio di trovarla colpevole di tutto che le viene anche attribuito un vecchio delitto. 4 anni prima, un certo Mr. Nesbitt era stato ucciso e un tale Kelly, alias Owen, che fino all'ultimo si era proclamato innocente, impiccato. L'unica prova contro di lui era che il rasoio, l'arma del delitto, era suo, ma lui sosteneva di averlo prestato a una donna che non conosceva. Ora anche questa donna diventa Sara. Lei è la grande colpevole, capace di ogni ferocia, di ogni slealtà. Tutti gli espedienti a cui ricorre, comprare i testimoni, pagare i carcerieri, mentire, imbrogliare le fila, e che dimostrano la sua dimestichezza con il sistema, vanno in fumo. Perfino il più decisivo, la denuncia dei complici, sarà vano. Ma a questo Sara tiene anche al di fuori del vantaggio personale. non vuole essere la sola a pagare. Non vuole pagare per quel che non ha fatto. Insisterà fino alla fine sulla loro colpevolezza. Ma torniamo a quei primi giorni. Si racconta che appena arrivata a Newgate, Sara esclamasse: «Sono una donna morta». Questo probabilmente accadde dopo l'interrogatorio di Alston, perché, come dice lei stessa, «ho negato tutto finché ho scoperto che aveva saputo del denaro e allora ho capito che la mia vita era andata». Viene messa nella vecchia cella dei condannati come il luogo più adatto per non farla scappare. E accanto a lei c'è una persona che la sorveglia giorno e notte per timore che attenti alla sua vita. Appariva malatissima e fuori di sé. Era presa da convulsioni e poi da accessi di vomito in cui rigurgitava grumi di sangue. Ma durante e dopo questi attacchi opponeva un persistente rifiuto a prendere qualcosa che la potesse confortare o aiutare. Fu fatta visitare da un chirurgo, Mr. Snowd, il quale, dopo aver esaminato il suo caso, dichiarò che secondo lui la sua malattia era dovuta a una soprannaturale precipitazione degli umori e che non era pericolosa. Cadeva in strani parossismi durante i quali roteava gli occhi e stringeva convulsamente le mani. Sintomi isterici o epilessia. Un giorno venne a trovarla il suo padrone, Mr. Carroll. Sara fu presa da una grandissima agitazione e si buttò ai piedi del secondino, abbracciandogli le gambe tanto che questi non riusciva a liberarsi. Quando tornò in sé e le chiesero di spiegare il suo comportamento, disse solo che non sopportava di vedere nessuno che conoscesse. Il processo. Venerdì 23 febbraio, nel corso delle sessioni del 21-24 febbraio alle 10 del mattino, viene celebrato il processo. Lo presiede il Lord Mayor John Barber. Il giudice è Sir William Lee, membro dell'Inner Temple dal 1717. Il prigioniero non è generalmente assistito da un avvocato. Si difende da solo e il suo vero sostegno sono i testimoni a favore, se riesce a trovarne o a comprarne qualcuno. Le pene sono semplici. Per un furto di un valore superiore alle 5 sterline c'era la pena di morte. Per qualunque reato inferiore a questo, la deportazione o la fustigazione o la bruciatura della mano. Se il furto era lieve e senza aggravanti, la clemenza induceva spesso la giuria a fissare l'ammontare del furto a una cifra convenzionale di 4 scellini e 10 pence, come succederà a Richard Treadwell, processato immediatamente dopo Sara. Fra tutti questi processi, che si risolvono generalmente in un'unica seduta, quello di Sara Malcolm fu il più lungo, durò 5 ore. E il più seguito dalla stampa. L'aula del tribunale era piena. Tutta Londra aspettava il verdetto. Il processo comincia con l'incriminazione dell'imputata. Sara Malcolm, altresì Malcolm, alzate la mano. Signori della giuria, guardate la prigioniera e udite la sua causa. È incriminata sotto il nome di Sara Malcolm, altresì Malcolm, di Londra, nubile. Perché non essendo in timore di Dio, ma mossa e sedotta da un'istigazione diabolica, il 4 febbraio, nel sesto anno di regno del nostro sovrano, il re ora regnante, nell'Inner Temple di Londra, su Anne Price, nubile nella pace di Dio, e del nostro sovrano, il re ora regnante, incontanente, la suddetta Sara Malcolm, assalì e con un coltello di ferro e acciaio del valore di 3 pence, la suddetta Sara Malcolm, incontanente nella sua mano destra, criminosamente, violentemente e premeditatamente, la gola della suddetta Anne Price colpì e tagliò, con il quale colpire e tagliare la suddetta Sara Malcolm inferse alla suddetta Anne Price una ferita mortale della lunghezza di 2 pollici e la profondità di 1, della cui ferita mortale la suddetta Anne Price istantaneamente morì. E così la suddetta Sara Malcolm, nella maniera e la forma già narrate, criminosamente, violentemente e premeditatamente, la suddetta Anne Price uccise e assassinò, contro la pace del nostro sovrano il re, la sua corona e dignità. All'imputazione segue la sfilata dei testimoni, interrogati dal pubblico ministero e controinterrogati dall'imputata. I testimoni, tutti a sfavore, si dividono in 3 gruppi che corrispondono ai 3 diversi teatri della vicenda. La casa di John Carroll, che riunisce lo studente, il suo amico Geoghegan e le 2 guardie del Temple, le scale della casa di Mrs. Duncombe, dove si ritrovano le 3 donne che scopriranno i corpi, Mrs. Love, Mrs. Rymer e Ann Oliphant, a cui si aggiungono ora Mrs. Crowded, che identificherà nella biancheria trovata da Carol sotto il letto le camicie di Mrs. Duncombe, riconoscibili dai rammendi. Non c'è un solo pezzo in tutta la sua biancheria che non sia rammendato. Il dottor Thomas Big e Mr. Farlow, portiere del Temple, che spiega com'era possibile che la porta fosse sprangata da dentro da una persona che si trovava fuori. Infine, la prigione, che fornisce la testimonianza dei carcerieri. La difesa della prigioniera, che fornirà in un lungo discorso finale la propria versione dei fatti, verte essenzialmente su un particolare, giudicato irrilevante dal giudice e dal pubblico ministero, e per il quale i testimoni, ripetutamente interrogati da lei, non forniscono alcun elemento, semplicemente perché non lo hanno notato. Questa difesa le è stata certamente suggerita dall'avvocato, che Sara ha pagato 18 scellini. È una difesa da 18 scellini, troppo esile per sortire qualche effetto. Si tratta di un ragionamento, e chi vuole ascoltare un ragionamento quando ha di fronte tre donne sgozzate? A tutti i testimoni, tanto alle donne che l'hanno vista il 4 febbraio alle 2 del pomeriggio sulle scale di Mrs. Duncombe, quanto a Carol e a Gehagan che l'hanno vista la notte successiva, Sara chiede di dire come fosse vestita. Tutti rispondono che non ci hanno fatto caso. Solo John Carroll risponde vagamente che portava quella pellegrina azzurra che indossi anche ora, ma che al suo vestito non ha badato. Del resto, chi nota il vestito di una lavandaia? Forse solo lo studente, che ha con lei rapporti un po' più stretti, un po' più ambigui, tutto sommato un po' più umani. Il giudice le fa comunque notare che in 24 ore ha avuto tutto il tempo per cambiarsi, ma Sara non è andata a casa a Shoreditch a cambiarsi d'abito. Ha cambiato camicia e grembiule in casa di Carol, quelli appunto trovati sotto il letto. Quello che Sara vuole dimostrare è che sugli abiti che portava la notte del delitto e la notte successiva, e che porta ancora in carcere durante il processo, non c'è traccia di sangue se non quello mestruale. Per questo insiste nel chiedere ai due studenti se la biancheria che hanno trovato sotto il letto fosse macchiata di sangue fresco o secco. Ma anche questo nessuno se lo ricorda. La sua tesi è che il sangue era fresco perché era il suo. Questo argomento lo svilupperà nella sua difesa. La modestia potrebbe spingere una donna a nascondere i suoi segreti se la necessità non la costringesse altrimenti, comincia in stile elevato la difesa della prigioniera. Ed è la necessità che mi obbliga a dire che quello che è stato preso per il sangue della persona uccisa non è nient'altro che il libero dono della natura. Questo solo è apparso sulla mia camicia, e lo stesso era sul grembiule, perché portavo il grembiule subito sopra la camicia. Il mio padrone, andando fuori città, mi ha chiesto di dormire in camera sua, e questa è stata l'occasione per cui la mia biancheria sporca vi è stata trovata. La donna che ha lavato le lenzuola in cui ho dormito può testimoniare che vi ha trovato lo stesso sangue, e Mr. Johnson, che mi ha frugata a Newgate, ha giurato di aver trovato i miei indumenti nelle stesse condizioni. Che le cose stiano così è evidente, perché come potrebbe essere il sangue della persona uccisa? Se si suppone che io l'abbia uccisa con i miei vestiti addosso, il grembiule sarebbe sporco, ma non lo sarebbe anche la camicia? Se l'ho fatto in camicia, come potrebbe essersi sporcato il grembiule o il dietro della camicia? E che lo abbia fatto vestita o svestita, come mai le maniche e il collo della camicia non erano sporche come la parte più bassa? Ammetto che i miei crimini meritano la morte, ammetto di aver partecipato alla rapina, ma sono innocente dell'assassinio e racconterò tutta la faccenda. Un altro elemento su cui insiste è che i soldi trovati su di lei non provengono tutti dalla cassetta di Mrs. Duncombe, e alla fine della sua difesa chiederà che gliene venga restituita una parte. Su questo fatto coinvolge il suo padrone, sostenendo che la vide la mattina di domenica contare dei soldi e che li contò dopo di lei nel suo letto. Carol nega recisamente di averla vista contare dei soldi, 17 sterline, la mattina, di averle chiesto da dove provenivano e di aver sentito che le venivano da certi parenti in campagna. «Se ti avessi vista con tutto quel denaro la domenica mattina», argomenta Carol, Ti avrei sospettata immediatamente appena saputo del delitto e sarei tornato subito a casa. Può essere una bugia per diminuire il valore del furto qualora fosse stata assolta dall'omicidio o per tenersi un po' di denaro. Non risultano infatti altri parenti in vita al di fuori del padre, che scriverà da Dublino per smentire di averle mandato dei soldi. Era troppo povero per mandarle la somma di 17 sterline, come lei sosteneva. O quei soldi può averglieli dati qualcun altro, magari la stessa persona a cui voleva rivolgersi per pagarsi una cella migliore e a cui poi non li chiese. Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.